La vita mi ha messo alla prova, mi ho messo alla prova la vita stessa, chi mi circonda, il mio enigma. Sono l'enigma di me stesso, faccio il riflesso di un cazzo, capito? Sono l'enigma di me stesso, non sono il riflesso di un pazzo, capito? That boy is Benny Hanna. Vorrei vivere, indistinguibile, dal resto della truppa. Vorrei spiccare sopra tutti e tutta questa ficca. Tutte che fanno il sole, oh il mio nemica, cara mia. Com'era fare il sole di periferia? Dall'alto, distruttiva e distruttibile, incorruttibile, il mio animo rimango placato, agitato al vento di un tormento, rimango qui un lamento di me stesso, non so più cosa voglio, forse ho tutto, forse non ho niente, sono tutto e niente. Tutto è niente, tutto è niente, tutto è niente. Come pensa la gente di me è vero, sono tutto e niente. Sono tutto e niente, come pensa la gente di me. Non me ne è mai fregato un cazzo. Io parlo con il mio everything in ritorno. Sarà mica questo everything la forma di me stesso, la forma di ciò che intorno non esiste più. Quando il mio everything parla sembra il buon Gesù, o forse Dio, a volte Satana, a volte l'oblio. Sarà che chi è nell'eterno rimane da solo prima o poi muore come strafatto dagli avvoltoi, travolto dai rivolti, dai risvolti crudi della stessa vita. Sarà che questa erba è menta peperita, cicuta. Rimango qui come Socrate e Platone, rimango come un grande pensatore. Nelle mie poesie, nei miei scritti e nei miei fumetti c'è tutta la mia filosofia di vita. Puoi prenderla in mano e leggerla quanto cazzo ti pare, tanto è mio. La mia opera figurativa non è banale, sei te che non capisci un cazzo, è normale. Rimango qua per ore ancora a fare sta storia, a fare sta storia. Rimarrò ancora un paio d'ore a disegnare, ok, sta storia, a scrivere il ritorno.